bambini tutti in fila che comincia il Grand Tour. Lui in aereo, lei in carrozza, noi abbiamo la Spider Coupé. Il cassiere divertito, tutto intorno che tifo che c'è. Passo della moto davanti a me, l'incidente in questi casi è in agguato, ma non riesco a sorpassare perché, dimmi come posso accelerare, sono qui, non mollo e tengo duro, avremo la strada da divorare, ma ci sembra una gran presa per il culo, il cassiere. Dondola anche, voglio scendere dalla giostra infernale, ma non posso, lei continua a girare, non distingo più il cassiere e mio padre, mi spavento e allora comincio a gridare, ehi bambino, non c'è niente da fare, rispetta gli altri dai, continua a giocare, questo è un gioco, non è mica l'inferno, ma io non voglio, voglio solo star fermo. Ma no, non puoi, decidiamo noi, la coda l'hai presa e posso cazzi tuoi. Devi soffrire, forse vomitare, carrozza o cavallo, devi comunque star male. Va bene resto, ma quando cresco, dai tempo al tempo e vedrai. Neanche un minuto ed il cassiere attacca la solita musica e dice dai dai, dai dai, prendi la coda. Dondola anche.